12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, oggi parliamo della possibilità di lavorare nel settore turistico. Soprattutto in questo periodo dell'anno, con l'estate in arrivo, cercheremo di capire quali professioni sono ricercate e quali sono i canali da percorrere per trovare lavoro in questo settore. Avremo ospiti la dottoressa Chiara Pesce, responsabile delle attività formative e del servizio di consulenza e collocamento dell'ente bilaterale del turismo di Venezia, e Gianluca Latella di Equipe Vacanze, agenzia di animazione che opera su livello nazionale. Il settore del turismo offre numerose opportunità di lavoro in Italia e all'estero, e i profili ricercati sono davvero molti. I requisiti di base che solitamente vengono richiesti sono la predisposizione al rapporto con il pubblico, una facilità di comunicazione, creatività e fantasia, capacità organizzativa e, non dimentichiamo, disponibilità a spostarsi e viaggiare anche per lunghi periodi. Quasi sempre è richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, e nel caso di professioni specifiche è necessario essere in possesso dei relativi requisiti, come brevetti sportivi, qualifiche ed esperienze precise. Tra le professioni più richieste sicuramente ci sono gli animatori, gli insegnanti sportivi, gli artisti, tecnici suono e audio, e poi hostess, commessi, autisti, guide e accompagnatori turistici. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato qualche informazione generale su quali sono le opportunità nel settore del turismo, cerchiamo di capire meglio come funziona, soprattutto nel nostro territorio, dando il benvenuto alla dottoressa Chiara Pesce, responsabile delle attività formative del servizio di consulenza e collocamento dell'ente bilaterale del turismo di Venezia. Dottoressa Pesce, benvenuta a 12 minuti. La ringrazio, bentrovati. Grazie. Dottoressa Pesce, per prima cosa, l'ente bilaterale del turismo chi è e di che cosa si occupa? Allora, l'ente bilaterale del turismo, nel nostro caso è l'ente bilaterale del turismo dell'area veneziana, è un ente non a scopo di lucro, costituito nel 91, conformemente a quanto dettato dal contratto collettivo nazionale del lavoro del settore turistico in materia di formazione professionale, e potremmo dire che gli obiettivi che persegue sono sostanzialmente quattro, ovvero la promozione e la gestione di iniziative che sono finalizzate ad aggiornare tutte le professionalità che agiscono nel settore turistico, l'intervento di sostegno al reddito per i lavoratori che si trovano appunto in sospensione di attività, la rilevazione attraverso un osservatorio sul mercato del lavoro dell'evoluzione del settore nel territorio e relativamente al fabbisogno formativo e ai processi di mobilità delle figure professionali nei vari comparti, e la gestione di una banca dati, che è attiva dal 99, di incrocio domanda-offerta di lavoro. Ecco, dottoressa, proprio rispetto a questo ultimo punto, quali sono le figure professionali che vengono maggiormente richieste nel settore turistico, e quali sono anche i requisiti, insomma, che vengono valutati? Sì, allora, per quanto riguarda questo, diremmo che in merito a come sono cambiate le esigenze delle aziende nei confronti delle professionalità, per tutto quello che è il cambiamento nel mondo del lavoro, potremmo individuare, diciamo, come proprio come filo conduttore, che non più viene richiesta una forte specializzazione in materie prettamente turistiche, ma piuttosto una considerazione spiccata verso altre abilità, altre competenze. Sono nate nuove figure professionali al lato di quelle classiche, quali per esempio revenue manager, persone capaci di agire sui social media marketing, su quella che è la reputazione sul web dell'azienda, e quindi attraverso tutto quello che ha a che fare con la promozione, assolutamente, insomma. Assolutamente. E quello che si chiede a chi opera nel turismo è sicuramente di possedere la capacità intanto di interpretare l'evolversi del contesto competitivo, che è costante, essere rapidi nelle risposte, avere la flessibilità di adeguarsi, potremmo dire, ai cambiamenti e di contribuire all'innovazione, e avere conoscenze fluenti per quanto riguarda le lingue, soprattutto al di là della lingua inglese, ma anche lingue che possono essere quelle dei paesi che si affacciano, le cosiddette nuove economie, quali la lingua russa, il cinese, il portoghese, per quanto riguarda il Brasile, un altro dei paesi di grande affluenza. Devono saper gestire le differenze culturali, aiutando un po' le culture che provengono da tutto il mondo ad interpretare il territorio, di cui poi si fanno anche non promotori. Devono saper sfruttare le potenzialità di esperienze che il territorio offre per aumentare la permanenza media del turismo, quindi per aiutare anche le imprese che operano nel turismo a destagionalizzare. Certo. Ed avere sicuramente molte competenze per tutto quello che è il mondo della net economy e del web. Per potersi candidare in questo settore, se un ragazzo appunto volesse intraprendere e provare a trovare lavoro in questo, in questo settore qui, che cosa può fare? Quali sono le modalità? Allora, se vuole utilizzare il canale dell'ente bilaterale, è sufficiente che ci telefoni, trova i numeri nel nostro sito che è www.ebt.ve.it e fissi un colloquio, che è un colloquio conoscitivo, quindi porti un suo curriculum, all'interno di questo colloquio noi cerchiamo di capire quali sono un po' quelle sue attitudini, quali possono essere i vincoli, quali possono essere le sue priorità, in modo da riuscire a coniugare così l'aspettativa con la reale ed effettiva possibilità occupazionale. Dopodiché incrociamo la disponibilità e quindi inviamo il curriculum a tutte le nostre aziende associate che dovessero aver bisogno di una figura professionale da inserire nel proprio organico, ce ne descrivono le caratteristiche, noi ecco lì l'incrocio, no? Cerchiamo di fare uno screening su tutti i curricula che abbiamo in ufficio e inviamo una rosa di candidati all'azienda che ce ne fa richiesta e dopo l'azienda stessa a contattare la persona a seconda ovviamente dell'interesse che ne scaturisce. Dopodiché è un normale colloquio di lavoro, perché il ruolo dell'ente è proprio quello di facilitare l'incrocio domanda-offerta. Dottoressa Pesce, io la ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti e per tutte le informazioni che ci ha dato. Io ringrazio voi e vi auguro buon lavoro. Grazie. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi rientriamo qui in studio con Equipe Vacanze. Sole, vai a dormire, per favore, che senza la luna lei non si farà vedere. E fa tristezza chi vuole insinuare che una sirena la potrai trovare solo nel mare. Ed io vedrò la sua coda sbattere le onde e il fiume dondolare, perché non esiste peggior cieco di chi non sa sognare. Se... E gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira la sirena. Sarà un segreto tra di noi, a mezzanotte in riva al fiume ogni sera. E balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla la sirena. E anche se mi diranno di no, io son contento perché ora lo so che c'è una sirena nel porto. Abbassa gli occhi che mi devo spogliare. Fiume scorri lento che lo sai, io non so nuotare. E tu, bufo che stai sul ramo, sarai il testimone. Le prenderò la mano e le dirò se mi vuole sposare. Così vedrò le mie gambe tramutarsi in coda e le squame luccicare. Perché noi pazzi sappiamo mescolare realtà e immaginazione. Sì! E gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira la sirena. Sarà un segreto tra di noi, a mezzanotte in riva al fiume ogni sera. E balla, balla, balla, balla, balla, balla, balla la sirena. E anche se mi diranno di no, io son contento perché ora lo so che c'è una sirena nel Po. Mondo, non chiamarmi che non voglio tornare. E non temere, io lo so, non so nuotare. Nel po'. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo parlando della possibilità di lavorare nel settore turistico. E dopo aver avuto con noi la dottoressa Chiara Pesce dell'ente bilaterale del turismo di Venezia, diamo subito il benvenuto a Gianluca Latella di Equipe Vacanze. Ciao Gianluca, benvenuto a 12 minuti. Ciao Giovanna, buongiorno a tutti. Gianluca, innanzitutto Equipe Vacanze, chi è e di che cosa si occupa? Allora, Equipe Vacanze è un'agenzia d'animazione che è nel settore ormai dal 99, quindi ormai sono circa 14 anni. Ci occupiamo di selezionare, formare e poi mandare appunto i ragazzi formati nei villaggi dove noi operiamo. Di solito lavoriamo un po' in tutta Italia, dalla Sardegna, la Calabria, il Trentino, il Veneto e così via. Ecco Gianluca, quali sono le figure professionali che possono collaborare con voi, che quindi voi cercate? Ma sicuramente tutte quelle che sono le figure che operano appunto nel settore animazione, animazione turistica, quindi dal capo villaggio, il capo animazione, il responsabile mini club, all'istruttrice fitness, la coreografa, i ballerini, animatori di contatto, piano bar, cantanti, scenografi, costumisti e così via. Quindi tantissime figure. Ecco Gianluca, quali sono i requisiti appunto che si deve possedere per questo tipo di lavoro, per queste figure professionali? Ma intanto bisogna distinguere le due figure, tra la figura tecnica, che può essere appunto uno scenografo, un tecnico audio luce, una costumista, e i cosiddetti animatori di contatto, mini club, che poi possono essere anche persone che non sono persone tecniche, non hanno nessuna esperienza in questo settore, che però abbiano tanta voglia di fare, tanta voglia di imparare, sicuramente disponibilità, educazione, voglia di stare a contatto con la gente, quindi essere persone solari e così via. Sicuramente sono le doti principali che bisogna avere per fare questo lavoro. Per potersi candidare, quali sono le modalità? Un ragazzo che appunto volesse provare a trovare impiego in questo settore, in questi tipi di lavoro, cosa deve fare? Diciamo intanto le iscrizioni sono aperte a tutti, bisogna inviare un curriculum con una foto, meglio se una foto figura intera, do il mio indirizzo email, direttamente indirizzo della nostra agenzia, curriculum@equipevacanze.it, bisogna inviare questa mail, poi noi valuteremo appunto il curriculum e poi da lì manderemo un'email per invitare nei vari colloqui che faremo in tutta Italia. Quest'anno addirittura faremo 14 tappe, tra cui appunto il 28 saremo a Mestre, presenti all'ufficio informa giovani di Mestre. Benissimo Gianluca, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per le informazioni ovviamente importanti per un giovane appunto che volesse provare a trovare un lavoro in questo settore. Ok, grazie mille. 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse cercare lavoro nel settore turistico, si segni sul calendario la data del 28 marzo 2013. All'Informa Giovani di Mestre Venezia, a partire dalle ore 15, proprio i nostri ospiti, Ente Bilaterale del Turismo dell'Area Veneziana ed Equipe Vacanze, oltre ad AVA, Associazione Veneziana Albergatori, saranno disponibili ad incontrare chi è in cerca di un'occupazione in questo settore. Daranno informazioni su come funziona il lavoro nel turismo e quali requisiti bisogna avere, oltre a raccogliere i curriculum di chi fosse interessato a candidarsi. È gradita conferma di partecipazione all'incontro scrivendo a informagiovani@comune.venezia.it oppure chiamando al numero 041 53 46 268. Vi segnalo anche alcuni siti in cui poter cercare lavoro nel settore turistico: www.eni.it, sito dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, www.veneziaspiagge.it, sito di Venezia Spiagge che gestisce alcuni stabilimenti balneari del Lido di Venezia, www.campeggi.it per conoscere tutti i campeggi d'Italia e quindi poi per presentare le proprie candidature, www.parksmania.it nel quale cercare appunto tutti i parchi divertimento italiani ma anche europei, www.jobintourism.it che è una vetrina dell'industria del turismo con inserzioni di offerte di lavoro. E per oggi è tutto, ma prima di salutarvi piccola anticipazione sul prossimo appuntamento che sarà dedicato alla possibilità di lavorare in Australia. Quindi per chi si sta orientando all'estero, occhio a non perdersi questa puntata. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.